Tasche degli italiani, così Renzi durante la riunione coi parlamentari del PD preannuncia le misure di domani. Le imprese chiedono un abbattimento dell'IRAP. Sta parlando in questi minuti il presidente di Confindustria Squinzi, dice abbiamo una ragione sola in mente precisa, il bene del nostro paese. Intanto il Partito Democratico è ancora in tensione sulla parità di genere nella legge elettorale. Il presidente del Consiglio dice rispettare gli impegni, in Senato se ne potrà discutere. Il Parlamento della Crimea proclama l'indipendenza dall'Ucraina. Torna a parlare Yanukovych. Vogliono scatenare, dice, la guerra civile. Gran Bretagna all'attacco da Putin, schiaffo al diritto internazionale. Le accuse di una donna ai medici, lasciata sola ad abortire nel bagno dell'ospedale Pertini di Roma. In alcune regioni l'85% dei ginecologi è obiettore. Due anniversari importanti, il Giappone ricorda i 3 anni dallo tsunami che investì le sue coste, la Spagna i 10 dagli attentati che colpirono la metropolitana di Madrid. Nuovo rapporto dell'UNICEF sulla situazione in Siria, 5 milioni e mezzo i bambini colpiti dalla guerra, oltre 1 milione rifugiato nei paesi vicini. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete le potete commentare al 349-238-6666, per osservazioni, commenti e tutto quello che volete c'è anche l'email, effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dai provvedimenti economici che arriveranno domani nel Consiglio dei Ministri, dei quali questa mattina è tornato a parlare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al quale ha replicato pochi istanti fa il Presidente di Confindustria Squinzi. Il punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Dibattito tra governo e parti sociali incentrato in queste ore soprattutto su chi debba beneficiare del previsto taglio da 10 miliardi del cuneo fiscale, se il mondo produttivo attraverso una sforbiciata dell'IRAP o lavoratori dipendenti e pensionati con un intervento invece sul fronte dell'IRPEF. Questa mattina il Presidente del Consiglio Renzi ha comunque ribadito la sua linea, per la prima volta domani sarà messa nelle tasche degli italiani una significativa quantità di denaro. Quanto ai penultimatum di Squinzi sull'IRAP e l'eventualità di uno sciopero della Camusso, ce ne faremo una ragione, parole che Renzi avrebbe pronunciato all'assemblea del PD e dopo aver letto il nuovo pressing di imprenditori e sindacati. E Simone, lo anticipavi da studio poco fa la replica di Squinzi, lui se ne farà una ragione, noi però abbiamo una ragione sola che è il bene del nostro paese, così Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, che questa mattina aveva poi approfondito il pensiero degli industriali. Siamo da tempo convinti che la questione chiave è la riduzione del cuneo pagato dalle aziende, ridurlo vorrebbe dire venire incontro a chi produce e genera valore in Italia. Sul fronte dei sindacati, Bonanni, CISL puntualizza, le aziende hanno bisogno invece di commesse, non di liquidità. Camusso, CGL ricorda a Renzi che c'è una parte del paese, lavoratori e pensionati, che aspettano risposte. Ed è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, di tutto questo torneremo a parlare più avanti nel corso della trasmissione, perché anche all'interno del Partito Democratico si registrano posizioni diverse sulla scelta tra IRPEF e IRAP appunto, e poi parleremo anche di coperture, insomma di come coprire questi tagli di tasse. Intanto arrivano i dati dell'Istat che conferma il PIL torna a crescere nel quarto trimestre del 2013, anche se di poco, eh. Dopo 2 anni con il segno meno, una boccata d'ossigeno finalmente. Secondo l'Istat, nel quarto trimestre 2013, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. Una rondine, non ancora primavera. Infatti, se si fa il confronto con il quarto trimestre 2012, il dato è in calo dello 0,9%. Con quest'ultimo dato si può dire che nel 2013 complessivamente il PIL italiano ha subito una caduta dell'1,8%, leggermente migliore del meno 1,9% precedentemente stimato. C'è quindi molta attesa per le stime sul primo trimestre 2014, dati che potrebbero ufficializzare l'uscita dalla recessione dell'Italia. Allargando la visuale in termini congiunturali, il PIL è aumentato nel quarto trimestre dello 0,7% nel Regno Unito, dello 0,6% negli Stati Uniti, dello 0,4% in Germania e dello 0,3% in Francia. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono anche informazioni economiche che arrivano dall'OCSE questa mattina. Numerosi paesi della periferia dell'Eurozona e quindi anche noi sono a rischio deflazione, sostiene l'Organizzazione di Parigi nel suo Interim Assessment. L'inflazione nell'area è scesa ancora al di sotto degli obiettivi e resterà probabilmente molto bassa per un periodo esteso, dato che la ripresa sta appena partendo. Nella riunione con i parlamentari del PD, oggi Renzi ha parlato di IRPEF e IRAP, come abbiamo sentito nel racconto di Vincenzo Miglietta, ma ha parlato anche e soprattutto di legge elettorale, dopo la bocciatura di ieri degli emendamenti sulla parità di genere. È ricominciato questa mattina il percorso alla Camera, appunto, dell'Italicum, il punto con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Marcia spedito l'Italicum qui alla Camera dei Deputati, l'ok potrebbe già arrivare in serata, approvato l'emendamento fondamentale della legge, ovvero quello che stabilisce la soglia del 37% per ottenere il premio di maggioranza, la soglia del 4,5% d'ingresso per i partiti in coalizione, dell'8% per quelli che corrono da solo, del 12% per le coalizioni, fissato al 15% il premio di maggioranza e c'è poi l'introduzione del doppio turno di ballottaggio per le due coalizioni o partiti che ottengono più voti ma non superano la soglia del 37%. Questo è l'aspetto tecnico, c'è poi però l'aspetto politico ed è quello che riguarda soprattutto le spaccature all'interno del Partito Democratico dopo quanto successo ieri nell'aula della Camera, quando sono stati respinti, ricordiamo, tutti gli emendamenti sulle quote rose a scrutinio segreto. Un PD ancora spaccato quindi dai franchi tiratori. E questa mattina è intervenuto l'ex segretario Pierluigi Bersani al Senato. L'Italicum dovrà essere cambiato, ha detto. Capisco gli accordi e che Berlusconi sia affezionato ad alcuni punti, ma dovrà farsene una ragione pure lui. Se non c'è una spinta sulle regole alla parità di genere, non ci arriveremo mai. Quindi questo è il monito di Bersani. A te, Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Noi veniamo alla cronaca, innanzitutto dalla provincia di Bergamo, in Val Seriana, dove un uomo ha ucciso a calci e pugni una giovane prostituta e si è liberato del cadavere buttandolo in un container all'esterno di un casolare abbandonato. Siamo a Cene, appunto, in Val Seriana. Autore dell'omicidio è un camionista di 37 anni. L'uomo era stato già condannato in novembre a 3 anni per violenze su un'altra prostituta. Negli ospedali italiani il numero di medici obiettori è molto elevato e molto spesso non è garantito il diritto delle donne a interrompere la gravidanza secondo la legge 194. A pochi giorni dalla condanna del Consiglio d'Europa all'Italia per questa che il Consiglio d'Europa ritiene una violazione dei diritti fondamentali è arrivata la denuncia di una coppia di Roma, Valentina e Fabrizio, per una vicenda del 2010. I medici dell'ospedale Pertini, in cui Valentina si era recata per abortire, erano tutti obiettori. Nessuno le avrebbe prestato aiuto e sarebbe stata lasciata sola con il marito ad abortire in un bagno del nosocomio. Al di là del caso, la situazione in tutta Italia resta critica, come spiega la dottoressa Silvana Gatone, presidente di LAIGA, Libera Associazione Italiana Ginecologi, per l'attuazione della 194. Abbiamo collaborato con l'associazione internazionale che è la IPPF europea a proposito della non applicazione della legge 194, in quanto l'articolo 9 della legge 194 prevede che tutti gli enti ospedalieri eroghino il servizio di interruzione volontaria di gravidanza di due tipi, cioè sia l'interruzione volontaria nei primi 90 giorni, sia l'interruzione volontaria dopo i primi 90 giorni. L'obiezione di coscienza come si inquadra in questo? Molti ospedali non hanno mai applicato questa legge, cioè non sono mai partiti dal 1978, a tuttora continuano a non erogare il servizio. Il punto è che nei reparti di ginecologia strutturati ci sono tantissimi ginecologi obiettori, si raggiungono delle cifre piuttosto elevate che stanno aumentando nel corso degli anni. Ora, mentre quando è uscita la legge effettivamente era giusto prevedere un'obiezione di coscienza, perché all'epoca era uno stato di fatto, la legge interveniva su uno stato di fatto, adesso nel corso dei parecchi anni, una persona che intraprende lo studio della ginecologia o si specializza in ginecologia sa che esiste una legge italiana in cui è prevista l'interruzione volontaria di gravidanza. Si può parlare di un'omissione di soccorso, come se ne è parlato in questo caso? Una volta che è stato iniziato un intervento, lì l'intervento è iniziato, la situazione è in atto e poi tutto il personale medico o paramedico deve prestare il servizio. Di questo caso ancora non ho assolutamente una connotazione chiara. La procura di Savona, che da tempo indaga sulle emissioni della centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure, ha chiesto il sequestro dell'impianto. Facciamo un punto e vediamo di capire anche qual è la vicenda che c'è dietro con Andrea Ferro. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. La decisione del giudice per le indagini preliminari Fiorenza Giorgi è di pochi minuti fa. La centrale elettrica a carbone di Vado Ligure, gestita da Tirreno Power, è sotto sequestro, così come aveva chiesto nell'istanza il procuratore di Savona Francantonio Granero e come dicevi tu da studio, Simone. Al di là del provvedimento dovrebbe essere comunque garantita la continuità produttiva di una parte degli impianti. Mentre vi parlo, all'interno dello stabilimento sono entrati i carabinieri per eseguire il provvedimento. Secondo la procura, il sequestro si è reso necessario perché l'azienda non avrebbe rispettato alcuni limiti imposti dall'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. L'inchiesta sulle emissioni della centrale a carbone di Vado Ligure era stata aperta da tempo e nelle scorse settimane la procura ha acquisito i dati shock contenuti in uno studio commissionato dai magistrati ad un pool di esperti. Secondo questi dati, tra il 2000 e il 2007 i fumi della centrale avrebbero causato la morte di 442 persone, abitanti a Vado, Savona e nei comuni limitrofi. Il procuratore Granero ha parlato anche delle conseguenze delle emissioni tossiche su altre 2000 persone ricoverate per patologie respiratorie e cardiovascolari e su 450 bambini affetti da asma. Due sono i filori d'inchiesta, uno per disastro ambientale, l'altro per omicidio colposo. Tre finora gli indagati, tra i quali l'ex direttore generale della centrale. Tirreno Power ha messo in dubbio la scientificità dello studio e quindi dei dati, affermando che non si può stabilire un nesso di causalità tra le emissioni degli impianti, i decessi e l'incidenza di determinate patologie tra la popolazione. Per il momento è tutto, Simone, ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferro, noi restiamo sulla cronaca con gli aggiornamenti sulle indagini che riguardano la vicenda delle cosiddette, con un brutto termine, baby squillo. A Roma si allarga l'inchiesta sulle baby squillo e fra gli indagati spunta anche un nome noto, è quello di Mauro Floriani, il marito della senatrice Alessandra Mussolini. Ex ufficiale della Guardia di Finanza e ora manager delle ferrovie, è accusato di prostituzione minorile, la stessa ipotesi di reato contestata ad una ventina di presunti clienti delle due adolescenti che si prostituivano in un appartamento nel quartiere Bene dei Parioli. Dal suo cellulare sarebbero partite telefonate compromettenti verso i numeri utilizzati dalle baby squillo. Nelle scorse settimane Floriani si era presentato spontaneamente ai carabinieri per spiegare che il suo numero poteva essere fra quelli finiti nei tabulati telefonici sui quali si sta ancora concentrando l'attenzione degli inquirenti. L'uomo avrebbe comunque negato di aver avuto rapporti con le due giovanissime prostitute. Le sue spiegazioni non devono però aver convinto gli inquirenti, che lo hanno lo stesso iscritto nel registro degli indagati. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo alle vicende dell'Ucraina. Che cosa ci racconta la giornata di oggi, con aggiornamenti soprattutto dalla Crimea, naturalmente, dove il Parlamento ha dichiarato l'indipendenza con 78 voti a favore su 81. Torna a parlare l'ex presidente Yanukovych, che dice: sono l'unico presidente legittimo e Kiev vuole scatenare una guerra civile. Ci si muove a livello internazionale con la Gran Bretagna molto dura. Cameron dice che da Putin c'è stato uno schiaffo al diritto internazionale. E ancora la cronaca sul campo ci racconta che proprio in questi minuti, proprio minuti fa, i voli verso gli aeroporti della Crimea sono stati sospesi, con l'eccezione di quelli che arrivano da Mosca. Saluto e ritorno ospite da noi Aldo Ferrari, che insegna storia e istituzioni dell'area turco-caucasica all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è ricercatore dell'ISPI. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa vede in questa evoluzione, nell'evoluzione in queste ultime ore di questa vicenda? Che rischi intravede, Ferrari? Ma è un'ulteriore complicazione di una situazione già estremamente difficile. È stata gestita molto male da tutte le parti da mesi e mesi, dal presidente Yanukovych e poi dall'Unione Europea, dalla Russia con la sua consueta lineare brutalità. Adesso si è andati oltre, adesso la Crimea sta per dichiararsi indipendente, costituendo sicuramente un vulnus al diritto internazionale. Però quando si parla di questo non è, a mio giudizio, legittimo vedere soltanto le pagliette pagliuzze negli occhi degli altri, insomma. Cioè, il diritto internazionale in questione è stato violato più volte. Quando siamo andati in Iraq era sicuramente una violazione del diritto internazionale, il Kosovo è stato dichiarato indipendente con una decisione non condivisa da molti. Insomma, le violazioni sono tante e in questo momento tutti cercano di accumulare elementi a proprio favore, di muoversi da posizione di forza. Anche l'uso di Yanukovych da parte di Mosca col suo nuovo discorso è sicuramente strumentale in questa direzione, perché si tratta di una persona politicamente finita. A questo punto sarà necessario, dopo il referendum, sedersi a un tavolo e discutere in maniera più ampia, approfondita e equilibrata di quanto non sia sinora successo. Grazie ad Aldo Ferrari anche per oggi per essere stato con noi, ricercatore dell'ISPI e docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Avete sentito poco fa il giudice per le indagini preliminari, Fiorenza Giorgi, ha disposto il sequestro della centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure su richiesta della Procura di Savona, che da tempo indaga sulle emissioni della centrale. Una somma significativa nelle tasche degli italiani, così Renzi durante la riunione con i parlamentari del Partito Democratico ha preannunciato le misure di domani. Le imprese chiedono un abbattimento dell'IRAP e c'è uno scontro tra Confindustria e il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio dice: se Confindustria non è d'accordo e vuole solamente il taglio dell'IRAP, ce ne faremo una ragione. Replica Squinzi: lui se ne farà una ragione, noi però abbiamo una ragione sola, che è il bene del nostro paese. Intanto il PD è ancora in tensione sulla parità di genere nella legge elettorale. Lo stesso Renzi dice: rispettare gli impegni, in Senato se ne potrà discutere. Il Parlamento della Crimea, ve l'abbiamo appena raccontato, proclama l'indipendenza dell'Ucraina ed è tornato a parlare Yanukovych, mentre la Gran Bretagna va all'attacco da Putin. Uno schiaffo al diritto internazionale. Adesso noi restiamo all'estero, dopo essere stati in Ucraina, per parlare di due anniversari importanti. Oggi si ricordano tanto lo tsunami in Giappone quanto i 10 anni dagli attentati che sconvolsero Madrid. Ebbene, iniziamo da Tokyo con Stefano Carrer del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora, io so che ieri sei stato in visita a Fukushima, appunto, e oggi invece nel luogo che è stato più colpito dallo tsunami di 3 anni fa. Che cosa ci puoi raccontare? Dunque, sì, io sono stato oggi a Ishinomaki, che è stata la cittadina più colpita, con circa 4.000 vittime. È una cerimonia veramente toccante, si è svolta alla scuola elementare Okawa, dove morirono 74 bambini e 10 insegnanti. Pensate, una scuola che si trova oltre 5 chilometri lontano dalla costa. Purtroppo era situata lungo un fiume che si è rivelato proprio una porta aperta per le onde assassine. 3 anni dopo, dunque, oggi alle 2.46 sono suonate le sirene antitsunami proprio per ricordare questo evento tragico di 2 anni fa, le 2.46 è l'ora in cui è arrivato il terremoto e poi più di mezz'ora dopo, insomma, lo tsunami. E 3 anni dopo il Giappone soffre ancora, ci sono ancora 270.000 persone evacuate, di cui quasi 100.000 residenti in prefabbricati temporanei, dovevano restare al massimo 2 anni e invece potranno restare 3, 4, 5 anni, perché la costruzione delle case va a rilento. Però nel Giappone orientale comunque è in corso un mini boom economico trascinato dall'edilizia, ma la situazione più critica resta quella intorno alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, perché alcuni paesi restano ancora off limits per gli ex residenti a causa delle radiazioni. Allora, proprio la società di Stefano, io ti ringrazio, siamo un po' stretti con i tempi, ti ringrazio comunque per questo racconto. E prima di ritornare alle questioni economiche italiane, lo faremo con un parlamentare del Partito Democratico e poi con un collega del Sole 24 Ore, l'altro anniversario di cui vi parlavo, quello delle stragi di Madrid, 10 anni. Era l'11 marzo del 2004, 3 giorni prima delle elezioni spagnole. 10 zaini, riempiti con esplosivo, furono fatti esplodere in 4 treni regionali di Madrid. Tra le 7.36 e le 7.40 furono sconvolte le stazioni di Atocha, El Pozo del Tío Raimundo, Santa Eugenia. 191 le vittime, 2057 i feriti. L'attentato più pesante della storia spagnola, rivendicato da un gruppo vicino ad Al-Qaeda. Ricordato oggi in tutto il paese con cerimonie religiose, eventi e concerti. E a 10 anni di distanza, avverte il ministro dell'interno Diaz, il rischio attentati terroristici in Spagna resta alto. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Giampaolo Galli, economista, deputato del PD, ex direttore generale di Confindustria, buongiorno. Buongiorno. Gliela metto giù brutale, IRPEF o IRAP? Dunque, questa è la scelta che bisogna fare, si farà entro domani, credo. Io su questo voglio essere molto chiaro, nel senso che io ho un'opinione, però che dico fra un attimo, al tempo stesso vorrei evitare di contribuire, come dire, alla confusione di idee e di linguaggi che in questi giorni si sta impossessando del Parlamento, del rapporto fra gruppo parlamentare e governo, quindi questo va assolutamente evitato. Detto questo, il consiglio che io do al governo, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia è quello di puntare sull'IRAP, perché l'Italia ha un drammatico problema di competitività che blocca la nostra crescita, che poi si riflette anche via moltiplicatore keynesiano, per così dire, anche sulla domanda interna, e noi a questo dobbiamo in qualche modo rimediare. Quei 15-20 punti, a seconda dei punti di vista, dei punti di partenza, dei metodi di calcolo che noi abbiamo perso di competitività, intesa come costo del lavoro per unità di prodotto nei confronti della Germania negli ultimi 10-15 anni. Senta una cosa, allora se l'ipotesi di taglio dell'IRAP, se sull'ipotesi di taglio dell'IRPEF l'impatto che il governo vorrebbe generare, ce l'abbiamo ben chiaro, che è un impatto sui consumi, no, l'ipotesi è tagliamo l'IRPEF sui redditi bassi, gente che sostanzialmente già sta molto stretta, e quindi abbiamo, se non la certezza, una ragionevole idea che quei soldi poi li vadano a spendere, proprio perché insomma sono già stretti con i soldi. L'impatto di un taglio dell'IRAP corrispondente invece quale sarebbe dal punto di vista economico, Galli? Ma guardi, l'idea che ho, e credo che quella che sta sul tavolo in questo momento, non è di ridurre l'aliquota dell'IRAP, ma di ridurre la componente lavoro all'interno dell'IRAP. E quindi questo vuol dire, cosa che era già stata iniziata da altri governi, quindi già c'è oggi uno sconto che è particolarmente forte su giovani, donne e mezzogiorno, nella componente lavoro dell'IRAP, quindi quella può essere incrementata con 10 miliardi, si può fare davvero moltissimo, quindi questo che cosa fa? Ti riduce il costo del lavoro, e quindi rende un pochettino più competitive le imprese italiane che, come noto, lei dice in sostanza andare a colpire quell'aspetto perverso dell'IRAP per il quale è una tassa che ha un impatto più forte, cioè più occupati hai più ha un impatto forte in sostanza. Esattamente, tu devi promuovere e incentivare le imprese che fanno nuovi occupati, che fanno nuovi posti di lavoro, e quindi se tu le tassi, questo naturalmente è un problema ed è un disincentivo, quindi io punterei tutto su quello. Detto ciò, dice, se mi arriva il decreto legge con il taglio dell'IRPEF lo voto, insomma, no? Non vorrei fare come sulla legge elettorale, per intenderci, diciamo, abbiamo fatto abbastanza, io credo che... Abbastanza insomma, confusione, dice lei. Abbastanza confusione, credo che ce ne sia un pochettino troppa e dobbiamo, credo che questo sia molto importante, cioè la cosa che per me è assolutamente fondamentale è arrivare in fondo al processo di riforme e anche al processo, diciamo, di riforme o messa a punto dei provvedimenti economici. Quindi quindi, questo quindi credo sì. Che tutte le parti in causa, parlamentari, parti sociali, società civile, eccetera, debbano tener conto. La ringrazio, grazie a Giampaolo Galli, deputato del Partito Democratico, economista, ex direttore generale di Confindustria, buona giornata. Grazie a voi. Davide Colombo del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno, ciao Michele. Da dove li caviamo questi quattrini, Davide, però? Appunto, come sempre quando sono annunciati provvedimenti così importanti, le coperture sono il rebus vero. Ieri il ministro dell'economia Padoan a Bruxelles ha posto molta enfasi sulla spending review, immaginando che quest'anno riescano a fare 5 miliardi di minore spesa corrente in ragione d'anno, bisogna vedere appunto come saranno queste voci, perché in ragione d'anno oramai noi siamo a marzo, quindi i mesi dell'anno sono già diventati 9. E quindi si tratta proprio di capire appunto quali voci si andranno a toccare. Sì. È possibile che ci siano anche delle misure one-off temporanee, cioè che facciano da copertura appunto ponte prima che diventino strutturali i tagli di spesa. Che è un po' l'idea, Davide, che aveva trasmesso lo stesso Padoan nell'intervista proprio al Sole 24 Ore di qualche giorno fa. No, facciamo delle misure temporanee per ricavare le coperture per i 10 miliardi di quest'anno, coperture che però poi diventano strutturali negli anni successivi. Si sta immaginando qualcosa anche sul pubblico impiego, Davide? Ma sul pubblico impiego, appunto, se si vogliono ricavare risorse importanti e immediate, sul pubblico impiego la massa stipendiale viaggia intorno ai 160 miliardi, scusate, per cui i tagli lineari lì sono immaginabili sempre quando non si sa dove altro trovare le risorse. Un'altra ipotesi, quindi voglio dire, un intervento anche di un punto percentuale su una massa stipendiale di 160 miliardi, sappiamo quanto può fare. Un altro certo. Intervento è riportare al 100% il blocco del turnover. Attualmente il turnover è sbloccato per il 20%, no? Si può riportarlo al 100% e anche qui ricavare un 400-500 milioni di euro, immaginando la misura in vigore da aprile in poi, però sottolineo il però, bisogna farlo per tutte le amministrazioni, cioè non solamente per le amministrazioni centrali, anche per le regioni, le province, i comuni e gli enti periferici. Il pubblico impiego è più o meno distribuito al 60% nella PA che sta sui territori, cioè nelle regioni, le province e i comuni, e il 40% nelle amministrazioni centrali dello Stato, per cui appunto anche lì si tratterà di capire come intervenire. Resta in fondo la voce delle rendite finanziarie. Ora il governo probabilmente cercherà di non fare un taglio delle tasse aumentando altre tasse, visto che ha appena dato facoltà ai comuni di aumentare fino allo 0,8 per mille l'aliquota TASI, che è che è un aumento della pressione fiscale, ovviamente, no? Sì. Però, la manina ce la potrebbe mettere, questo dice in sostanza. La riorganizzazione di quelle aliquote potrebbe avvenire. Grazie a Davide Colombo del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire che cosa potrebbe succedere domani. Poi domani effettivamente lo troveremo. A chi ci chiede, chi dice però di norma l'IRAP non è parte del costo del lavoro, il ragionamento che si stava facendo è che l'IRAP va a colpire il reddito al lordo del costo del personale, ed è questo proprio l'impatto pesante che ha sulle imprese. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Renzi promette una somma significativa nelle tasche degli italiani, le imprese chiedono un abbattimento dell'IRAP, squinzi, abbiamo una ragione sola, questa ragione è il bene del nostro paese. Partito Democratico ancora in tensione sulla parità di genere nella legge elettorale, intanto si sta votando l'Italicum alla Camera. Il Parlamento della Crimea proclama l'indipendenza dall'Ucraina, Gran Bretagna all'attacco da Putin, schiaffo al diritto internazionale. La Tirreno Power di Vado Ligure, il GIP ha disposto il sequestro dell'impianto della centrale elettrica a carbone. Infine le parole di un attimo fa di Piercarlo Padova, ministro dell'economia. A Bruxelles bisogna far sì che l'Europa guardi più alla crescita e al consolidamento dopo la grande crisi che ci ha colpito. I mercati. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buongiorno, ciao. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Allora, giornata marginalmente positiva, direi, almeno in Italia, più 0,17% il FTSE MIB, più 0,22% il FTSE Share. È negativo il resto d'Europa, Parigi giù dello 0,43, Londra giù dello 0,20, in realtà due facce, perché poi Francoforte guadagna lo 0,3%, come mai? Una realtà a due facce, come dicevi Simone, anche se i movimenti restano marginali, la seduta abbastanza fiacca per tutte le borse europee, hanno cambiato più volte direzione nel corso di una giornata che è anche priva di spunti macroeconomici. Gli investitori mantengono prudenza prima di prendere posizioni alla luce delle persistenti tensioni in Ucraina, così i movimenti sono marginali. A Milano il FTSE MIB è in leggero rialzo, questo in attesa dei conti 2013 di importanti gruppi bancari e del settore del lusso. Senti, tra i titoli in evidenza mi sembra l'unico da poter segnalare un po' più forte è Unipolsai, che guadagna il 3%. Sì, Unipolsai fa più 3%, questo in vista della cessione dei premi ad Allianz, che dovrebbe chiudersi entro metà del mese, quindi ormai entro pochi giorni. Non particolarmente con un indirizzo particolare i bancari, no? Vedo Monte dei Paschi un punto e mezzo, Intesa mezzo punto, Unicredit altrettanto. Sì, hai ragione, c'è da dire comunque che sono ben orientati quelli per cui si attendono i conti oggi. Il Monte dei Paschi guadagna il 2,4%, Unicredit lo 0,8%, per Unicredit è atteso a breve anche il piano industriale. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, buongiorno. No, buongiorno a tutti. Allora, perché l'abbiamo chiamata? Perché noi nel trattare, insomma, nel concentrarci in questi giorni soprattutto molto sulla crisi ucraina, forse stiamo lasciando un po' da parte quello che succede in Siria, dove insomma abbiamo parlato di due anniversari, quello dello tsunami in Giappone e quello delle bombe di Madrid che si celebrano oggi, ma tra poco si celebrano i 3 anni dall'inizio di quella che è una vera e propria guerra civile. Ebbene, voi, ossia quella in Siria, voi avete presentato dei dati oggi a proposito della situazione dei bambini in Siria. Ci vuole dire che cosa ci racconta? Sono questi dati? Sì, sono dei dati che raccontano di quella che possiamo definire l'emergenza umanitaria più grave degli ultimi 10 anni. Dei 9 milioni e mezzo di persone colpite dal conflitto in Siria, 5 milioni e mezzo sono bambini che hanno naturalmente bisogno di assistenza umanitaria, circa il 56% di tutti i bambini siriani. Ma ci sono due dati nel nostro rapporto che vanno evidenziati e che sono fondamentali. Ci sono 1 milione di bambini che vivono sotto assedio in Siria o in zone di fatto irraggiungibili. Il secondo dato è che ci sono 37.000, quasi 38.000 bambini nati in condizioni di rifugiati. Vuol dire che del 1.200.000 bambini che sono dovuti fuggire dalle loro case nei paesi limitrofi, quasi 40.000 sono nati direttamente proprio in questi paesi. Sono dati davvero incredibili. Questa è la situazione, ma ci sono, come dire, si riesce ad agire o non si riesce? Cioè lei ci dice che c'è 1 milione di bambini che sostanzialmente non è raggiungibile nemmeno dalle organizzazioni umanitarie in sostanza. No, ci sono delle situazioni incredibili. Noi abbiamo fatto un lavoro chiaramente in questo periodo molto forte. In Siria abbiamo raggiunto 10 milioni di persone con l'acqua potabile, in Giordania, in Libano e in Iraq abbiamo allestito campi, abbiamo portato programmi di vaccinazioni, di scuole, proprio per cercare di assistere questi bambini e di cercare di farli tornare alla normalità. Non c'è dubbio che ci sono delle aree in Siria di grandissima criticità. Non dimentichiamo che il campo di Yarmouk, che si trova al sud di Damasco, per fare un esempio, quello della famosa fotografia delle migliaia di persone in fila, è un campo che per 300 giorni è stato praticamente inaccessibile ed era difficile entrare. In moltissime altre zone ci sono ospedali distrutti, 4.000 scuole rase al suolo e naturalmente spesso il personale umanitario è sotto il tiro dei cecchini, per cui chiaramente si opera e si lavora all'interno della Siria in una condizione di grandissima difficoltà. Nei paesi limitrofi l'intervento è stato massiccio, anche se c'è ancora molto da fare. Grazie Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, per essere stato con noi. E noi adesso parliamo di Passione Sud, il viaggio che abbiamo deciso di fare nelle zone d'Italia che ancor più del resto del paese stanno soffrendo la crisi. Un viaggio nelle principali città del Mezzogiorno, dove sono tante le difficoltà ma anche le potenzialità. Sentiamo la puntata di oggi. 12 anni tra carte e documenti, 13 dal concepimento dell'idea. Quando Nicola Rizzo ha deciso di voler portare la talassoterapia in Campania, aveva più capelli e meno rughe. E ora forse solo i trattamenti della sua spa da 2500 metri quadrati riescono a farlo riprendere dallo stress di tanta burocrazia. A un certo punto nel mio progetto è entrato persino il gabbiano corso, perché quando abbiamo dovuto chiedere il parere ambientale, qualcuno ci ha detto che il gabbiano corso avrebbe nidificato in questa zona, che noi non abbiamo mai visto. Benvenuti al sud, ripete, davanti al mare blu del Cilento, e sorride con una serafica pazienza senza la quale forse un altro imprenditore l'avrebbe data vinta a burocrazia prima e carenza di servizi poi. Io no, perché ci credevo, io ho voluto andare avanti. Poteva nascere 7-8 anni fa tranquillamente. Sono vincoli stupidi, perché il vincolo serio va bene, perché noi vendiamo benessere, vendiamo territorio, ma i trasporti non ne parliamo proprio. Noi siamo fuori dal mondo, la gente a terra a Napoli deve venire fino da noi, per cui se uno di Milano vuole venirsi a fare un weekend da noi e venire in aereo fa molto prima di andare in qualsiasi altro posto all'estero. I trasporti, eterno problema in Campania ad ogni latitudine, dalla precarietà della circumvesuviana che dovrebbe portare i turisti di tutto il mondo pure a Pompei, all'incertezza degli autobus di Napoli, che però può vantare la vittoria del più importante riconoscimento internazionale per la sua nuova metropolitana. Le tradizionali contraddizioni partenopee stanno pure in questo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Il nostro viaggio al sud continua anche fisicamente nei GR, nei programmi. Giovedì e venerdì Focus Economia con Sebastiano Barisoni in diretta da Napoli. Venerdì si trasferisce a Napoli anche tutti i convocati con Carlo Gente e Pierluigi Pardo. Maggiori informazioni su www.radio24.it. Naturalmente in tutti i convocati di oggi invece si toccherà inevitabilmente l'argomento Champions League. In campo stasera anche il Bayern, mentre invece noi vogliamo raccontare la storia del suo presidente che ieri ha messo una maxi evasione. Si è presentato in tribunale con a fianco la moglie Susan, compagna da 40 anni. Poi Uli Hoeneß, ex campione del mondo con la Germania Ovest nel 1974, leggenda del Bayern Monaco e ora presidente dei vincitutto bavaresi dal 2009, ha confessato. Non solo di aver evaso il fisco tedesco per 3 milioni e mezzo di euro, come lo accusa la procura. Di più, Hoeneß, 62 anni, ha confessato che l'evasione ammonterebbe in realtà a oltre 18 milioni, ben più di quanto contestatogli. In realtà il numero uno del Bayern ha iniziato la procedura di autodenuncia dal gennaio 2013, ma questo potrebbe non attenuarne la posizione, visto che l'inchiesta a suo carico è partita solo dopo le crescenti pressioni della stampa teutonica. Un duro colpo alla credibilità internazionale del Bayern, simbolo mondiale di quella Germania targata Merkel che fa dei conti a posto il suo mantra come paese leader dell'Unione Europea. Se Hoeneß dovesse essere condannato alla prigione, che in Germania scatta quando si evade una cifra superiore al milione, dovrebbe lasciare la guida dei bavaresi e rischierebbe fino a 10 anni di detenzione. La sentenza è attesa per giovedì. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apre domani una grande mostra a Milano dedicata a Klimt a Palazzo Reale. Questa mattina è stata presentata alla stampa. C'era per noi Adriana Fracchi. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno, mi trovo proprio a Palazzo Reale a Milano, dove fra poche ore all'interno appunto del palazzo si inaugura la mostra intitolata Klimt, le origini di un mito, organizzata da Palazzo Reale 24 Ore Cultura, Gruppo 24 Ore, Artemisia Group. Questa mostra, che apre domani al pubblico e durerà fino al 13 luglio, espone 20 oli originali di Gustav Klimt, artista viennese famosissimo, vissuto dal 1862 al 1918, 20 oli non pochi. pochi se si pensa che sono un centinaio in tutto il mondo i dipinti di Klimt, che il Museo Belvedere di Vienna, che organizzò una grandissima mostra nel 2012, ne aveva a disposizione 40. Purtroppo delle sue opere è rimasto poco, perché andarono distrutte in un incendio nella Seconda Guerra Mondiale. Klimt è stato uno dei massimi esponenti dell'Art Nouveau, della secessione viennese, e questa mostra vuole raccontare come è nato il suo genio, qual era il suo contesto familiare, i suoi effetti, i suoi inizi di carriera alla Scuola di Arti Applicate di Vienna, e come si è formata appunto la sua personalità artistica fin dalle prime esperienze giovanili. Tra le opere che potrete vedere qui, alcune molto famose, citiamo Adamo ed Eva, il Girasole e la famosissima Salomè e Fuochi Fatui. Appuntamento quindi da stasera, per il pubblico da domani per la verità, a Palazzo Reale a Milano, per Klimt, alle origini di un mito, fino al 13 di luglio. Ed è tutto. Grazie alla nostra Adriana Fracchia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Un giudizio in tribunale non, diciamo così, normale, ma che riguarda una causa che è stata portata da una figlia, che si chiama Rachel, contro i genitori, contro i signori Canning. Rachel Canning ha deciso di andare in tribunale contro papà e mamma. Perché? Ma dice perché hanno sospeso il pagamento delle mie rette scolastiche. Ecco, la vicenda in sé per sé potrebbe sembrare alquanto strana, tanto è vero che il giudice Peter Bogard, che è stato coinvolto in questa causa, a un certo punto ha detto: no, ma ragazzi, qui stiamo andando forse un po' oltre, c'è un limite, non posso occuparmi del fatto che il papà o la mamma pagano o non pagano le rette scolastiche della figlia, e quella li porto in tribunale. Allora domani cosa ci saranno? Altre denunce? Dovremo occuparci di tutto, se è giusto fare un videogiochi o meno, se hanno il diritto di vedere la televisione o meno. Quindi c'è un po' un limite a tutto. Quindi questa azione di questa Rachel, che decide di portare i genitori in tribunale perché non gli pagano la retta scolastica, devo dire, supera, come dire, quelli che sono i confini etici che noi potremmo immaginare. La giustificazione che il padre ha dato è che questa ragazza se n'è andata di casa, ha deciso di andarsene, di fare la sua vita, e dunque loro, contrari al fatto che lei abbandonasse la casa paterna e materna, hanno deciso di non pagarle più le rette scolastiche e di interrompere i rapporti. La vicenda è curiosa, perché poi lei chiede che loro gli dovranno pagare anche le future rette universitarie. Questa ragazza è all'ultimo anno del high school e mancano 6 mesi, va a questa Morris Catholic High School. Chiede che i genitori paghino $650 al mese e che il giudice li obblighi a pagare. E qui è interessante sapere se voi poi ascoltatori avete un'idea, se è giusto o sbagliato, ma io con me ai microfoni di America 24, Massimo Gaggi, che si è occupato a fondo di questa storia, non soltanto sulla cronaca, ma così anche un po' sul piano sociologico. Massimo, il corrispondente del Corriere della Sera per gli Stati Uniti. Buongiorno Massimo. Buongiorno a te, Mario. Allora, Massimo, insomma, una storia curiosa. Una figlia che porta i genitori in tribunale perché non gli pagano la retta scolastica. Ma è una roba da tribunale, secondo te? Forse non è da tribunale, ma è una cosa che ha fatto molto discutere, perché tutto sommato echeggia delle questioni che in tutte le case prima o poi si sono sentite. Io credo che molti genitori davanti a un figlio ribelle possono avergli detto: questa casa si fa in questo modo, finché sei qui dentro, poi a 18 anni sei libero di andartene altrove e ti farai la tua vita. Infatti, ma qui è un po' come se questa ragazza chiedesse gli alimenti ai genitori, no? In qualche modo, soprattutto. Perché nel frattempo le cose sono cambiate, perché anche in America la crisi ha cambiato i rapporti, e questa ragazza, quello che colpisce di questa ragazza secondo me non è tanto il fatto che è andata in tribunale, quanto il fatto che pone la questione in termini un po' diversi. Cioè dice: cari genitori baby boomers, figli del baby boom, che vi siete arricchiti, avete fatto una vita molto più ricca e facile di quella che avremo noi, noi figli che invece siamo figli di una generazione di aspettative decrescenti, che viverà peggio di voi. Quindi non occupatevi soltanto di garantirvi la pensione dorata, di fare le vacanze alle Bahamas, pensate anche a noi e a darci un'educazione costosa, ma che è quella che ci consentirà in futuro di avere un posto di lavoro decente. Questa un po' è la sua logica, sicuramente discutibile, ma che fa discutere, appunto. Sì, sì, no, discutibile e dal mio punto di vista alquanto bacata, caro Massimo, perché che questa ragazzina dica che i genitori non possono fare un weekend a Las Vegas, dove poveretti erano andati per farci un po' di vacanza, perché devono pagarle la scuola alla quale lei va, dopo essere non soltanto uscita di casa per sua scelta, ma dopo essere stata montata, se non sbaglio, ma correggimi, dal genitore di una sua amica, cioè c'è un terzo personaggio, quindi è una storia un po' complessa e secondo me questa si nasconde ed è stata istruita a dovere, come dire, da questo signore, da questo terzo personaggio, il quale cerca di cavalcare la questione morale dei giovani che così devono essere sostenuti dai vecchi che si sono goduti la vita e che adesso li lasciano un paese indebitato. Ecco, c'è questo terzo personaggio? Ma sì, sicuramente nella storia ci sono, se la vogliamo vedere dal punto di vista locale, sicuramente ci sono delle diatribe che andrebbero tutte poi studiate se uno interesse di farlo. C'è questo, il padre dell'amica del cuore dalla quale è andata a vivere questa ragazzina, che è un avvocato molto noto della zona, probabilmente c'è una rivalità con la famiglia di Rachel, sicuramente ci sono state delle discussioni, delle rivalità di questo villaggio, di questo paese della New Jersey in cui si è consumato tutto questo. Però ripeto, quello che poi alla fine fa discutere di tutta questa vicenda qui e fa riflettere è il cambiamento un po' di accenti rispetto a un passato nel quale si dava per scontato che poi i genitori si facevano la loro vita, aiutavano i figli a crescere e poi da un certo punto in poi li facevano volare con le loro ali, a un momento in cui un figlio ti dice guarda che i rapporti sono cambiati perché tu sei cresciuto in un mondo molto più ricco e molto più benestante, io invece sto andando verso un mondo molto più povero, quindi vedi un po' come devi comportare anche rispetto alla mia educazione, rispetto a tutto ciò. Come andrà a finire, Massimo? Ma il giudice già l'ha detto, finirà male, perché una questione del genere non sarebbe mai dovuta arrivare sul tavolo di un magistrato. Nel momento in cui si arriva è chiaro che non è una soluzione diversa che sarebbe dovuta arrivare prima, quella di una soluzione trovata dal consulente familiare, a questo punto non è più possibile. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. L'11 marzo del 68, ormai 46 anni fa, una canzone strepitosa diventava disco d'oro. E la canzone era Sitting on the Dock of the Bay, che fu registrata da Otis Redding, grandissimo cantante, pensate, 3 giorni prima della sua morte in un incidente aereo. Dunque, per lui fu un riconoscimento postumo di una canzone indimenticabile. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. I ringraziamenti Pietro Lacorte in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24, come sempre una buona giornata da Simone Spezia. Vi ricordo l'email effettogiorno@radio24.it. Ci risentiamo tra un attimo col giornale radio, domani alle 13 con la trasmissione.